Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Marea più alta del previsto con libeccio e piogge. L'acqua invade Grado, le rive di Trieste e il centro di Muggia. Mareggiata a Lignano. Chiusa la strada tra l'isola d'Oro e Aquileia. Fenomeni con pochi precedenti, secondo gli esperti. Prevista una graduale attenuazione. Fine settimana senza piogge di rilievo, ma il maltempo tornerà già martedì. Processo Regeni, depositate le motivazioni della consulta sul procedimento nei confronti degli agenti egiziani. Ecco perché vanno giudicati anche se non sono stati avvertiti. Vertenza Varsila di nuovo al centro dell'attenzione. La prossima settimana un incontro a Roma sulla riconversione dello stabilimento di San Dorligo. Sciopero degli enti lirici. A Trieste salterà la prima della Manon in programma il 2 novembre. A scuola di futuro e di diritti. A Udine gli studenti incontrano la nuova tecnologia dei metalli. A Trieste in classe il portavoce di Amnesty Italia. Maratona di lettura con i più piccoli è un libro lungo un giorno, iniziative in tutta la regione. Cinema al via a Trieste, il festival di fantascienza. Pordenone si apre al Verdi, la stagione della prosa. Una superstar scozzese a Terzo d'Aquileia per la 3 giorni dedicata alle freccette. Sono le 12:31 minuti e 30 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Il mare ha invaso il centro di Grado questa mattina ben prima del picco di marea che era previsto intorno alle 9:30. In anticipo di 2 ore sono state allagate le banchine del porto e le zone limitrofe in un raggio che si è via via ampliato fino a che l'acqua ha raggiunto l'altezza di 166 centimetri sopra il livello medio, quasi 20 in più rispetto alla misura attesa. Difficili operazioni di polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile per contenere i disagi della popolazione, considerato che le scuole sono rimaste aperte ma numerosi studenti non hanno potuto raggiungerle. Sentiremo fra poco la situazione da Grado, anche parlando con il commissario Viola. Grado infatti è senza sindaco, ma adesso facciamo il punto sui disagi che si sono registrati nelle altre località. Disagi appunto si sono registrati anche a Trieste, dove il mare ha superato l'altezza dei moli, sommergendo il molo Audace ma anche ampi tratti delle rive per effetto del forte vento e per le precipitazioni. Un'ora e mezza dopo il picco di marea, intorno alle 11, erano chiusi al traffico appunto le rive fra Piazza Tommaseo e Piazza Venezia, via Mercato Vecchio, parte delle vie Bellini e Rossini lungo il canale di Ponte Rosso, la parte finale di via Genova, via Mazzini Bassa e parte di via Cassa di Risparmio. Mandracchio chiuso invece a Muggia, dove sono rimasti allagati il centro storico e le calli. Una 20 centimetri d'acqua al picco di marea in piazza Marconi sotto il municipio. È rimasta invece aperta, benché allagata, la galleria. Chiusa la strada per Lazzaretto subito dopo Punta Sottile. Le onde hanno fatto crollare un muro dal lato del mare. A Villaggio del Pescatore un albero ha travolto 2 imbarcazioni. I vigili del fuoco sono sul posto per la rimozione del tronco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. A Lignano la spiaggia è stata flagellata dal libeccio. Per valutare gli eventuali danni della mareggiata bisognerà però attendere che la situazione rientri alla normalità. Anche a Marina Iuria il vento forte si è fatto sentire e la spiaggia è stata completamente sommersa. Nella baia di Sistiana, infine, la marea ha superato i moli e la sede della società nautica Pietas Iulia è rimasta allagata. Dunque questo è il punto della situazione nelle varie località, ma adesso andiamo a Grado a sentire come si sono svolte le operazioni questa mattina durante il picco di marea. Il picco dell'alta marea è arrivato verso le 10 a Grado, tra i 166 e i 169 centimetri, un po' di più rispetto alle previsioni. Complici un vento di libeccio a 75 km orari sulla costa e un'alta marea astronomica particolarmente intensa, a finire sott'acqua questa mattina sono stati viale Monfalcone e le vie adiacenti, il Mandracchio e parte della Colmata, salvo invece il centro storico. In mattinata bloccata la viabilità cittadina dalla rotonda della Schiusa e chiusa anche la strada translagunare 352 con deviazione verso Boscat. Per entrare o uscire da Grado è rimasta percorribile la provinciale 19 da Fiumicello o Monfalcone. Numerosi i negozi e le abitazioni che hanno avuto acqua nei locali, ma i danni, raccontano i cittadini, sono stati relativamente contenuti rispetto al passato. Deviata anche la circolazione del trasporto pubblico con sospensione in particolare della linea 59. disagi più importanti con annesso strascico di polemiche invece per la mancata chiusura delle scuole in città. I dati relativi alla marea diffusi ieri, dice il commissario Augusto Viola che guida il comune, indicavano dalle 9 un picco atteso di 148 centimetri, poi aggiornato in serata a 157. Previsione che non aveva indotto i tecnici comunali, ha spiegato ancora Viola, a richiedere la chiusura delle strutture scolastiche. Ma l'acqua, come detto, è stata un po' più alta e soprattutto la marea è salita in anticipo, proprio all'orario di ingresso di studenti e personale scolastico. Grado, Lorenzo Gerlinzoni, TGR. Friuli Venezia Giulia. L'allerta meteo arancione per la zona costiera proseguirà fino alla mezzanotte di oggi. Ricordiamo che è di colore giallo per tutte le altre zone. Gli uomini della Protezione Civile stanno monitorando il territorio già messo a dura prova dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Ma sentiamo ora le valutazioni che arrivano dall'ARPA sugli ultimi fenomeni e proviamo con Marcellino Salvador a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. È stata un'altra marea di eccezionale importanza, specialmente a Grado, dove si sono sfiorati i 170 centimetri, quindi è la terza volta in cinque anni, negli ultimi cinque anni, che si raggiungono valori del genere che storicamente erano eccezionali. Si sta ripetendo con una frequenza veramente alta. Tutto ovviamente dovuto al forte vento da sud che è arrivato fino a 75 km orari come libeccio, e anche ovviamente a una bassa pressione importante, caratteristiche queste che con l'alta marea in corso in questi giorni porta a queste conseguenze. Adesso avremo diciamo un miglioramento netto nel pomeriggio, calo del vento, miglioramento anche del tempo in generale sulla regione, quindi la situazione si andrà tranquillizzando, però appunto stamattina è stata decisamente pesante per quanto riguarda le zone di costa. Qual è invece il tempo che ci attende per il weekend, cioè sabato e domenica? Tutto sommato nel weekend non avremo episodi significativi, non ci sono perturbazioni di rilievo, direi un cielo in genere poco nuvoloso, quindi giornata discreta domani, domenica probabilmente più nuvole con un cielo appunto nuvoloso coperto sulle prealpi e alta pianura, qualche schiarita invece ci sarà sulla costa e forse anche nel Tarvisiano. Qualche pioggia potrà esserci, in maniera però estemporanea, probabilmente domenica nel pomeriggio sera e forse anche in questa notte potrebbe esserci qualche episodio, ma assolutamente nulla di rilevante. La prossima perturbazione importante arriverà proprio negli ultimi giorni del mese, a cavallo tra il 30 e il 31, all'inizio della prossima settimana. Dunque abbiamo detto praticamente tutto del tempo, resta da riferire delle temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 18,5 gradi, a Gorizia 17, a Udine e a Pordenone 16,5 decimi, e poi nell'area montana a Tolmezzo 13,5, a Tarvisio 11, a Sappada 8 gradi, a Forni di Sopra 10, sul Piancavallo 10,5 e in quota sullo Zoncolan 5,5, sul Lussari 4 gradi, sulla costa a Grado e a Lignano 18,5 decimi. È stata depositata questa mattina la sentenza della Corte Costituzionale che il 27 settembre scorso ha dichiarato illegittima l'archiviazione del procedimento nei confronti degli agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Così la motivazione della Consulta. Non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale la paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall'impossibilità di notificare personalmente agli imputati gli atti di avvio del processo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza. Questa impossibilità, si legge ancora nella motivazione della Corte Costituzionale, si risolve nella creazione di un'immunità de facto che offende tra l'altro i diritti inviolabili della vittima e il principio di ragionevolezza. Siamo ai temi del lavoro, torna in primo piano l'avvertenza Varsila con l'avvicinarsi della scadenza dei termini dei contratti di solidarietà. La settimana prossima un incontro che potrebbe fare un po' di luce. Mancano 65 giorni alla fine dell'anno, il 31 dicembre dietro l'angolo, data in cui scadrà il contratto di solidarietà alla Varsila per 300 lavoratori diretti, altri 300 dell'indotto hanno di conseguenza il proprio futuro incerto e quindi a rischio. Dall'entourage della sottosegretaria al Ministero del Made in Italy Fausta Bergamotto arriva stamane la notizia che la prossima settimana ci sarà un incontro bilaterale tra governo e azienda che, incordata Ansaldo Energia e Mitsubishi, dovrebbero presentare un piano industriale territoriale congiunto. Ai sindacati era stato promesso un tavolo ministeriale a Roma entro il 30 settembre che non c'è stato. Questa mattina le segreterie territoriali, la RSU, della Varsila si sono incontrati e è stato fatto il punto. Noi siamo con Antonio Rodà, segretario UIL. Ma come è andata e che cosa avete deciso di fare? A questo punto i tempi stringono. Sicuramente abbiamo raccolto la preoccupazione dei delegati di fabbrica e rispetto a questo, insomma, il tempo che passa, abbiamo deciso di scrivere a Regione e Prefetto affinché, come diciamo, più alte esponenti delle istituzioni a livello territoriale, spingano sul governo per far sì che, insomma, possiamo venire messi a conoscenza quanto prima di quello che dovrebbe essere il piano industriale che ci verrà presentato. Siete preoccupati? Parliamo di 300 lavoratori diretti, 300 in attesa di quello che succederà. Siamo con Alessandro Gavagnin, segreteria FIM CISL. Cosa pensa? Siamo preoccupati perché l'incontro che doveva esserci al Mimit era previsto entro fine settembre, però siamo fiduciosi perché vuol dire che qualcosa sta bollendo in pentola. Ora ci aspettiamo che l'incontro solliciteremo con l'iniziativa che abbiamo deciso di mettere in campo, quindi scrivere a Regione e Prefetto affinché venga convocato questo tavolo ministeriale dove ci vengono almeno quantomeno fatti i nomi e presentato un minimo di piano industriale. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I dipendenti dell'ufficio ispettorati del lavoro incroceranno le braccia lunedì 30 ottobre per uno sciopero proclamato dai sindacati CGL, CISL, UIL, CONFSAL, FLP e USB, che prevederà anche dalle 11 alle 12 un presidio davanti alla prefettura di Trieste in piazza Unità d'Italia. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro le carenze di organico, per il mancato riconoscimento di arretrati stipendiali e per chiedere la definizione della natura giuridica dell'ufficio, attualmente ancora ibrida e priva di reale autonomia giuridica ed economica. E vanno verso una clamorosa ma non inattesa protesta i lavoratori degli enti lirici che da 20 anni chiedono invano il rinnovo del contratto. A Trieste lo sciopero annunciato dalle sigle sindacali di settore per il 2 novembre farà saltare la prima della stagione lirica al Teatro Verdi, dove è in programma la Manon Lescaut. Proprio questa sera è in calendario la presentazione alla stampa dello spettacolo. Coro e orchestra al lavoro per le prove della Manon Lescaut, opera in 4 atti di Giacomo Puccini che dovrebbe debuttare il 2 novembre al Teatro Verdi di Trieste, ma la rappresentazione è a rischio a causa dello sciopero indetto dai lavoratori del Verdi in sintonia con il Coordinamento Unitario Nazionale delle Fondazioni Liriche Sinfoniche. Altri spettacoli, altre prime sono già saltati in altri importanti teatri italiani. Noi siamo con Giuliano Polo, sovrintendente del Teatro Verdi. Lei dice il 2 novembre è molto difficile che questa opera venga rappresentata. È quasi certo che il 2 novembre non ci sarà. Abbiamo ricevuto ieri un comunicato da parte delle organizzazioni sindacali locali che ci hanno anticipato lo sciopero. Era una comunicazione, ahimè, attesa, perché c'è una trattativa piuttosto difficile che si sta protraendo da lungo tempo a livello nazionale per il rinnovo di un contratto che è fermo addirittura da decenni. Quindi, diciamo, la proclamazione era attesa e in realtà ci sono ancora in corso trattative a livello nazionale, per cui potrebbero esserci anche dei cambiamenti, ma in questo momento non possiamo assolutamente prevedere una ripresa delle attività. E noi ci attiveremo con i sindacati locali per vedere di studiare un percorso per un eventuale recupero della prima, se ci sarà la disponibilità. E tuttavia desidero, come dire, rassicurare sulle altre recite che si svolgeranno normalmente già da sabato 4 novembre, domenica 5 novembre, poi come programmate. Questo teatro è tenuto in piedi da 250 lavoratori tra amministrativi, coro e orchestra. Lei si sente di essere solidale con questi lavoratori che da 20 anni aspettano un rinnovo contrattuale? Beh, sicuramente, diciamo, le ragioni dello sciopero sono fondate dal loro punto di vista, nel senso che è un contratto che non si rinnova da molto tempo e che deve essere assolutamente rinnovato sia per la parte economica che per la parte normativa. Naturalmente ogni rinnovo contrattuale si scontra con un tema economico che deve essere anche affrontato e questo genera, diciamo, un certo stallo che si è verificato, ripeto, a livello centrale a Roma. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'industria di domani sotto gli occhi degli studenti di oggi. Un incontro al Malignani di Udine ha posto all'attenzione dei ragazzi le nuove frontiere della metallurgia. Imprenditori ed esperti di metallurgia e meccanica del Friuli Venezia Giulia hanno incontrato gli studenti del Malignani di Udine nell'ambito del progetto di Digital Academy ideata da Mills, società che si occupa di mappature e flussi di mercato, e con l'iniziativa Metal 5.0. Le dinamiche del mondo del lavoro nel settore industriale da qualche anno si sono capovolte. Se in passato erano i ragazzi a fare la coda per entrare nelle aziende, oggi sono queste ultime ad essere alla disperata ricerca di giovani da inserire nelle fabbriche. Alberto Cavicchiolo, presidente Mills. Un progetto che per la prima volta mette insieme gli istituti tecnici, soprattutto quelli del Friuli. Ovviamente per il Friuli partiamo dal Malignani, che è il più grande istituto italiano. Abbiamo esteso il progetto e lo stiamo facendo diventare proprio una specie di academy itinerante. Oliviero Barbieri, dirigente ISIS Arturo Malignani. Noi dobbiamo cercare di stare al passo con l'evolversi della società e del mondo del lavoro, e quindi abbiamo l'esigenza di fornire ai nostri studenti le informazioni del contesto e poi calarle nella nostra pratica, nella nostra didattica, per fare in modo che i ragazzi siano pronti al mondo del lavoro. Il ruolo decisivo dei materiali e delle materie prime riferite alle nuove tecnologie in un'azienda che si modifica sono stati al centro dell'incontro con gli studenti. Fabio Zanardi, presidente Assofond, Associazione Nazionale delle Fonderie. Abbiamo bisogno di professionalità che siano capaci di autorinnovarsi continuamente, quindi quello che noi cerchiamo è soprattutto curiosità, stimoli, capacità di lavorare in gruppo, perché purtroppo oggi quello che si sa all'uscita della scuola diventa obsoleto nel giro di poco tempo, quindi la scuola a nostro parere deve riuscire a formare nel rinnovamento continuo delle competenze, perché è questo che è richiesto dalle nostre aziende ma dal mondo che sta cambiando. Udine, Giovanni Torbina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nelle scuole anche i diritti umani. Questa mattina a Trieste il portavoce di Amnesty Italia ha incontrato alcune classi del liceo Petrarca. Se si guarda a quanto è avvenuto negli ultimi 3-4 anni tra guerre e crisi climatica, in tema di diritti umani c'è da farsi venire lo sconforto, ma se si considera una finestra temporale più ampia, allora lo spazio per essere ottimisti c'è. Lo dice il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri, intervenuto a Trieste, al liceo Petrarca, in un incontro per ricordare i 75 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I passi avanti ci sono stati, spiega, e vanno dallo sviluppo del diritto internazionale a quello della giustizia internazionale, insieme a una sensibilità più diffusa sul tema. Occorre sempre restare allerta, precisa, perché le conquiste non sono mai definitive e si assiste in tante parti del mondo a una regressione, non solo in Iran ma anche in diversi paesi dell'Occidente, dove i diritti della donna sono sempre più in discussione. L'intervento di Nuri ripercorre luci e ombre della situazione attuale dell'operato di Amnesty, che in certi casi somiglia più a una missione. Quello che facciamo è il massimo sforzo per la minima resa, ma ogni risultato è importante, dalla sensibilizzazione sulla condizione femminile alle mobilitazioni per salvare innocenti da sentenze ingiuste. Molto attenti e interessati i ragazzi, studentesse e studenti dell'ultimo anno, sia dell'indirizzo classico che di quello linguistico. Sono consapevoli, spiegano, dell'importanza del tema e di quanto questo ricada nelle loro vite di tutti i giorni. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E dopo l'esordio dello scorso anno a Fiumicello-Villa Vicentina, si è svolto stamattina a Udine, nel Palazzo della Regione, la seconda edizione della giornata dei consigli comunali dei ragazzi del Friuli, organizzata da ACLIF, l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana. Sentiamo com'è andata. Ci sono consigli comunali dei ragazzi che hanno proposto il recupero dei piatti della cucina tipica, altri l'organizzazione di tornei sportivi o di spettacoli teatrali assieme agli anziani, oppure ancora la trascrizione delle vecchie storie in friulano. A Udine, all'auditorium della Regione, sono state premiate da ACLIF, l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, alcune delle 14 proposte per la valorizzazione dell'identità friulana. Noi di Gemona abbiamo proposto di fare questo video, questi piccoli video di Gemona, di tradizioni e luoghi, soprattutto di intervistare personaggi che hanno fatto la differenza. Qual è la vostra proposta da San Daniele? Allora, la nostra proposta è quella di valorizzare i personaggi del nostro comune, del nostro territorio, creando magari, rappresentandone nelle vie quelli che hanno lasciato un'impronta a San Daniele, quelli che l'hanno migliorata. Quindi in questo cartello una definizione accurata del personaggio. Noi avevamo pensato di fare un'attività, una camminata in particolare a tema friulano, nelle tappe dei luoghi più significativi di Tricesimo, raccontando la storia di quei luoghi e alla fine trovandoci per un rinfresco ed un confronto. Sono 141 i comuni aderenti all'ACLIF, iniziativa patrocinata dalla Regione, ha visto la presenza del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e dell'Assessore alle Finanze Barbara Zilli. Ai consigli comunali dei ragazzi arriverà un piccolo contributo per stimolare l'avvio dei progetti. Daniele Sergon, Presidente di ACLIF. Questi progetti noi come ACLI vorremmo poi seguirli, ma il valore è proprio quello di cercare già dai ragazzi, già dai più piccoli, di passare questa cosa che ci hanno passato i nostri vecchi, e cioè quello di sentirsi friulani. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, il libro Identità di confine della storica Mila Orlic, che analizza le travagliate vicende dell'esodo dall'Istria nel periodo dal 1943 al 1955, sarà presentato a Trieste alla libreria Minerva alle 18.30. Si svolge oggi in tutta la regione l'iniziativa Un libro lungo un giorno, una maratona di lettura nelle biblioteche, nelle scuole, ma anche nelle piazze e sui mezzi pubblici, che ha avuto centinaia di adesioni. Ne abbiamo parlato. Buongiorno Regione. Ognuno può organizzare un momento dedicato alla lettura, dove vuole, con chi vuole, leggendo cosa vuole. È lo spirito dell'iniziativa Un libro lungo un giorno, organizzata per il 10° anno dal progetto regionale di sensibilizzazione alla lettura Leggiamo 018. L'obiettivo è ricordare che la lettura non è solitudine, ma condivisione, che non è solo evasione in altri mondi, ma risorsa per il mondo in cui viviamo. Ad aderire sono stati in quasi 200, tra biblioteche, scuole e singoli cittadini. Davide Iannis, presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese e coordinatore dell'iniziativa. Le letture sono fatte nelle biblioteche, nei luoghi di aggregazione, ma tanti iniziano con anche specifiche attività individuali. C'è un caffè che l'altro anno ha messo le poesie a fianco al caffè, oltre al biscottino metteva una piccola poesia. C'è qualche scuola che ha organizzato la disposizione dei libri nelle piazze, piuttosto che una parrucchiera che ha messo a disposizione i libri e ha chiamato una lettrice che leggeva le storie mentre alle sue clienti. La maratona di lettura è stata anche l'occasione per inaugurare il progetto Leggiamo a scuola, che coinvolgerà 2500 classi della regione. Il progetto prevede la possibilità di leggere a scuola per 15 minuti ogni giorno, 15 minuti in modo che la lettura non sia un elemento sporadico, ma diventi un elemento continuativo, che diventi una parte della giornata, il potersi dedicare, prendere 15 minuti, che sono il tempo minimo sufficiente per leggere, per fare una lettura profonda. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Un progetto per raccontare ai nativi digitali e a tutti gli interessati come sia nato internet e quali fossero gli ideali che hanno mosso i pionieri che l'hanno creato. È quello organizzato dal Pordenone Linux User Group, che prevede una parte riservata alle scuole e due incontri aperti al pubblico. Il primo questa sera alle 20 all'Auditorium Concordia, dedicato ad Aaron Schwartz, programmatore, attivista politico e sostenitore del pensiero Free Software. Parte oggi a Trieste la 23esima edizione dello Science Fiction Festival, la rassegna dedicata ai film di fantascienza. Tre i film in programma nella prima giornata: il celeberrimo Jurassic Park di Steven Spielberg alle 16.30 al Politeama Rossetti, UFO Sweden di Victor Danel alle 20 sempre a Rossetti, e il film muto Dr. Jekyll e Mr. Hyde di John Robertson del 1920, musicato live dal duo Effetto Brama alle 23 al Teatro Miela. Al Teatro Verdi di Pordenone si apre la stagione della prosa con un classico goldoniano, La locandiera. Nei panni di Mirandolina c'è Sonia Bergamasco, la regia è di Antonio Latella. Pordenone è tra le prime piazze della tournée di questa produzione del Teatro dell'Umbria, che è debuttato il 15 ottobre a Spoleto. Si fermerà in scena al Verdi fino a domenica. In un percorso quasi ventennale, l'alpinista veneto Beppe Zaggiotto ha completato la salita a tutte le 86 cime oltre i 3.000 metri delle Dolomiti. Parlerà della sua esperienza questa sera alle 20.45 nella sala del teatro parrocchiale di Piano d'Arta. Gli abbiamo chiesto com'è stato affrontare questo lungo viaggio e com'è cambiata la montagna in questi anni. questa mia avventura nasce poco prima degli anni 2000. Nei primi anni salivo in queste quote più che altro per allenamento per le grandi vette delle Alpi. Dopodiché c'è stato un momento dove, sempre salendo le Dolomiti, ho avuto il cosiddetto colpo di fulmine, dove me ne sono innamorato, e da lì nel 2013 è partita realmente questa mia avventura concentrata in 5 anni, dove ho salito tutte le 86 cime oltre i 3000 metri delle Dolomiti. Come si è sentito quando ho conseguito questo obiettivo, quando ho fatto l'ultima di queste 86 vette? Ricordo che è stata una vita molto impegnativa, in quanto era la cima del Faulkner, era una cima non conosciuta nel mondo dell'alpinismo, tanto che il nostro orgoglio, mio e dei miei due compagni di quell'avventura, è più che altro quello di aver fatto riscoprire una montagna sconosciuta a tutti. Oggi che molti degli 8000 sono più facilmente accessibili anche a un turismo montanaro di massa, possiamo dire, o quasi, è anche un modo questo di recuperare un rapporto con montagne più vicine, più a misura? Beh, guardi, più che più vicine e più a misura, voglio sottolineare che nelle Dolomiti ci sono ancora montagne, vie di salita, anche un'arrampicata, su cime pochissime frequentate proprio per la friabilità della roccia. Quindi le Dolomiti, come altri gruppi montuosi vicini, regalano emozioni senza dover andare lontano. In questi anni, in questi 20 anni, più di 20 anni che lei arrampica, sì, come ha visto cambiare le montagne e l'alpinismo anche riguardo, penso, agli effetti della crisi climatica? Tutti noi che frequentiamo la montagna siamo i primi testimoni di quello che sta realmente succedendo. Anche quest'anno io ho avuto modo di salire alcune cime delle Dolomiti, tornando dopo 7, 8, 10 anni, e il cambiamento è veramente incredibile. Manca la neve che fino a qualche anno fa, non 20 anni fa, fino a qualche anno fa c'era. Quindi questi sono i segnali concreti che noi possiamo vedere ed essere testimoni. Lo sport si aprirà alle 14 ad Aquilei, alla pista di pattinaggio di Piazza Fratelli Cervi, il villaggio della Mito Marathon. Oggi l'unica gara di maratona del Friuli Venezia Giulia, giunta alla 3ª edizione. Gli iscritti sono oltre 400, molti provengono dall'estero. La gara partirà domenica alle 9:30 e vedrà come favorito il keniano Simon Kamau Nyeri, che ha firmato le prime 2 edizioni e punta a uno storico tris. Domani previste numerose iniziative collaterali. E ci sarà anche una superstar internazionale, il professionista scozzese Alan Sutar, da stasera a 3ª d'Aquilei, alla 3 giorni dedicata alle freccette, in programma la Rosa Rossa. Questa disciplina sportiva è praticata in Italia da 20.000 persone, si gioca con le tradizionali freccette dalla punta in acciaio, gli steel darts o con quelle in gomma o silicone su bersagli elettronici. Sentiamo Angelo Ceccotti, presidente della Italian Darts Academy. È una disciplina riconosciuta dal CONI. Noi in Italia abbiamo circa 20.000 persone che giocano a freccette, sia in modo tradizionale con le punte di ferro, sia soft dart, macchinette elettroniche. Questo evento tendenzialmente è fatto per lo steel dart, perché abbiamo un ospite di eccezione che è Alan Sutar, il numero 32 del mondo. Quante persone giocano a freccette qui da noi in Friuli Venezia Giulia? 450 circa tesserati di steel dart, credo altrettanto di soft dart. Quanto bisogna allenarsi per giocare bene a freccette, per vincere un torneo di freccette? Ma in Italia, a livello italiano, diciamo, non abbiamo grandi elementi che sono in grado di competere a livello internazionale per il momento, a parte la parte under, che dove abbiamo avuto moltissimi risultati. I professionisti si allenano dalle 4 alle 8 ore al giorno. Perché fate questo evento? Per promuovere, immagino, lo sport delle freccette? Per promuoverlo sicuramente, ma noi abbiamo un'accademia italiana che si occupa di disabili e di 18, e quindi è un modo per raccogliere i fondi per portare avanti le iniziative che facciamo, specialmente a livello internazionale, dove i ragazzi li portiamo fuori 3-4 volte all'anno e i costi sono notevoli ovviamente. Chiaramente in questo tipo di sport non ha degli sponsor importanti, per cui l'autofinanziamento è fondamentale. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa edizione è stata realizzata da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Walter Vidonis. Prossima edizione alle 15, grazie per la vostra attenzione e ancora buona giornata.